Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali. Buongiorno, buongiorno, 16ª puntata di Restiamo Animali, una trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Vi accolgono con un caloroso BAU! Alessandra Giannini, Elisa Moretti, Beatrice Montini, Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Lorenzo Guadagnucci e Massimo Chiari. 16esimo viaggio tra le esperienze, i risvegli, i richiami, gli stimoli per vivere, pensare e agire in modo non violento e rispettoso verso i nostri fratelli animali, riconoscendo loro pieni diritti. E a proposito di diritti, metteremo oggi l'accento sul significativo collegamento tra diritti umani e diritti animali. Di insetti, istinti animali e bestiali è fatta la musica di questa puntata, per riflettere su come tendiamo a giustificare le nostre emozioni più indomabili come facenti parte di una meno domabile di origine animale. Come se poi gli animali fossero essere barbari senza un codice o una motivazione che spieghi i loro comportamenti. In sottofondo molti pensano che ci sia Toriamos, ed invece è un perfetto clone, Charlotte Martin, che comunque ci piace con questa Animals. La dedica è accompagnata da un valzer composto per angeli e insetti e suonato dal Balanescu Quartet, proprio come romanzo di Antonia Bayat. Delle suadenti bestie selvagge ci canteranno di ipnotici voli di albatros, mentre i torinesi perturbazione provano a essere animalisti con la deliziosa Animalia, che in modo scanzonato ci stimolo a delle riflessioni. Negli anni Ottanta un gruppo che ancora duran si faceva notare per la loro fame o il loro arrapamento, che definivano come quello di un lupo. E continuando con le frasi fatte, avremo la leggenda Johnny Cash che ci confessa della bestia nera che era in lui, mentre l'eterea algida Agnes Obel ci canterà della sua personale bestia, mentre il nostro saggio filosofo l'abbraccerà per abbassare il PIL. Chiuderemo con dei mirtilli rossi che, su accattivanti melodie similcure, ci parleranno di istinti animali. Per riascoltare, ripensare, riassaggiare, restiamoanimali.wordpress.com, che potete raggiungere dalla home page di Controradio o attraverso una meditazione sulla rabbia. Per chi invece volesse sentir parlare di pasto gentile e scelta vegan, vi invito stasera al Bhakti Festival che si svolge a Villa Vrindavana alle ore 18. Grandi eventi come per esempio le Olimpiadi di Pechino e i Mondiali di calcio in Sudafrica diventano occasioni per una vera e propria pulizia etnica. A farne le spese sono sempre le categorie più deboli, quindi umani poveri, con la conseguente distruzione di baraccopoli, bidonville, slum abitativi e la deportazione in massa dei più poveri e disagiati, che è stata documentata in Sudafrica, o con la misteriosa sparizione di cani e gatti randagi già verificatasi alle Olimpiadi di Atene del 2004, fino ad arrivare alle atrocità e ai massacri dei cani randagi in Ucraina, in occasione dei campionati europei di calcio che si disputano proprio in questi giorni in Ucraina e Polonia. Vere mattanze con denunce per 20.000 animali uccisi nei modi più brutali. Come non vedere uno stretto legame tra il discutibile arresto dell'ex premier Giulia Timoshenko, che è avvenuto in Parlamento subito dopo la sua sconfitta elettorale, e il massacro dei cani randagi? Diritti, garanzie e tutele che trasversalmente, in modo arbitrario, vengono applicati o negati e che noi reclamiamo al di là di ogni specie di appartenenza. Questa trasmissione, geneticamente modificata, avrà dunque due cuori. Il primo è rappresentato dallo speciale sulla Sagra del Seitan, organizzata dalla storica associazione fiorentina Progetto Vivere Vegan, che si è tenuta domenica scorsa a Pozzolatico, in Pruneta, che vi racconteremo guardandola dalla originale prospettiva del diario di due infaticabili volontari, a noi particolarmente familiari. E dall'evento vegano assolutamente locale vi radio trasferiremo in un collegamento radiofonico con Strasburgo, dove l'onorevole Andrea Zanoni, eurodeputato italiano, ci racconterà chi sono i randagi ucraini e la sua battaglia contro il loro massacro. Notizie, interviste, attualità. La Sagra del Seitan di Pozzolatico è arrivata alla 9ª edizione ed ormai uno degli appuntamenti più conosciuti ed apprezzati a livello nazionale in ambito animalista e antispecista. È organizzata da Progetto Vivere Vegan, Onlus Fiorentina, che ha svolto un lavoro pionieristico, introducendo un concetto e una pratica, il veganismo, inteso in un'accezione antispecista, con cui pochissimi avevano dimestichezza quando Progetto Vivere Vegan nacque oltre 15 anni fa. Oggi questa associazione è un punto di riferimento sicuro per tutto l'universo animalista. La Sagra è un evento gastronomico, popolare, aperto a tutti, e si propone di diffondere informazioni sul trattamento riservato agli animali nella nostra società e anche una cultura, un punto di vista appunto antispecista. Include perciò, oltre agli stand gastronomici, anche eventi culturali e musicali, seminari, e ospita gli stand di associazioni e produttori selezionati con grande rigore secondo criteri cruelty free. La Sagra del Seitan è realizzata grazie all'impegno di numerosi volontari e ha avuto quest'anno oltre 3.000 partecipanti, provenienti dalla Toscana e da altre regioni, a testimonianza del valore ormai non solo locale di questa manifestazione. Possiamo dire che il successo della Sagra del Seitan è un'altra testimonianza della crescente attenzione che circonda le tematiche animaliste e antispeciste. Massimo Chiari e Alessandra Giannini ci raccontano a modo loro una giornata che è stata davvero molto speciale. Domenica sono le 6 del mattino e dobbiamo andare alla Sagra del Seitan. Il cane lo porti fuori te, vero Massi? Palle. Questi sono i rumori della cucina. Tonnellate di cipolle rosse che fanno piangere chi? I carnivori, che non sanno che cosa si stanno perdendo a non essere qui oggi a festeggiare la scelta vegan. Noi siamo segregati in cucina, ma abbiamo con noi Dora, una delle organizzatrici della Sagra. Dora, com'è fuori? Qua non si vede nulla. Beh, fuori c'è tanta gente. Affamata? Affamatissima, lunghe file, i volontari si stanno facendo in quattro per velocizzare il servizio, però noi ce la mettiamo tutta. Speriamo di mandare tutti a casa belli pieni. Ah, quando hai detto speriamo di mandare tutti... Sono qui con Sabrina, una volontaria della Sagra del Seitan, e stiamo montando teglie e teglie di lasagne. È la prima sua esperienza, sia per quello che riguarda il volontariato, sia per quello che riguarda le lasagne. Sentiamo le sue impressioni a caldo. Le impressioni sono positive, sono entusiasta di fare la lasagna per la prima volta e anche per questa manifestazione. Quindi se avrai ospiti a cena, il piatto base sarà? Lasagna. Lasagna e lasagna. Bene, sta iniziando il servizio del pranzo e siamo qui in compagnia anche del super chef Maurizio, che sta sfornando teglie e teglie di lasagne. Maurizio, ma quanto mangiano questi vegani? Mangiano tanto questi, sì. Quanti chili di sugo hai fatto per le lasagne? 90. 90 chili di sugo di seitan. Oddio, vi devo lasciare perché c'è la ressa. Ed ora abbiamo la più giovane in assoluto, che si chiama? Clara. Clara, la inseguo perché mi sta sfuggendo. Ci comanda tutti a bacchetta, ma a parte questo, come procede? Qual è la cosa che piace di più? Sono gli gnocchi senz'altro e il tofu rosso. Ma tra un po' finiranno e un'alternativa c'è oppure no? Sì, secondo me le lasagne vanno abbastanza. Un cavatap. Un cavatap. Grazie. Mi sono concesso una piccola pausa e sono al bar. Mi trovo davanti a una persona e c'è scritto: sono un maiale. E allora? È vero, io sono un maiale. In realtà è una magliettina di provocazione, perché gioca sul fatto che il maiale è ormai utilizzato come un termine dispregiativo. In realtà l'animale, il maiale, è un animale fantastico. Tant'è vero, la magliettina dice: grande, c'è scritto, io sono un maiale, con la faccia di questo maiale sorridente. E allora il maiale è pulito, intelligente e socievole, quindi ha tante di quelle qualità che non sarebbe un termine, chiamare una persona come maiale non è un termine dispregiativo, quello è proprio un concetto specista. Viva i maiali! Sono tornata nelle cucine della Sagra del Seitan e accanto a me abbiamo Niccolò, che si è rivelato una risorsa incredibile in cucina, perché ha una manualità stupenda e lui sostiene che è la prima volta che affronta questo tipo di sfida. Un'impressione verissimo, molto divertente. Però è la prima volta, però ci si diverte. Ma sei così anche a casa oppure soltanto quando sei alla Sagra del Seitan? bravo. Così anche a casa. Perfetto. Pulisce anche. L'uomo vegano è l'uomo da sposare. Mi chiedono la lasagna, vi lascio, scusate. Incredibile successo quest'anno alla Sagra del Seitan, sono le 2:30 e praticamente abbiamo finito tutto, anche le cose per la cena, quindi Vincenza dovrà tornare alla raccolta a prendere gli ingredienti e cucinare. Vincenza, ci dici qualcosa? Aiuta! Chi può venire a darci una mano? Purtroppo non siamo in diretta, ma il prossimo anno aspettiamo nuovi volontari per lavorare in cucina. Bene, la situazione è questa, bisognerà preparare le cose ancora per quante persone? I 100 kg di ragù di seitan non sono bastati. Non sono bastati, ne faremo ancora 50-60 kg per stasera. Così, uno spuntino. Uno spuntino, via. Siamo qui con Paolo, uno dei due mangiafuoco della Sagra del Seitan, e è da stamattina che ci affumica noi, affumica gli arrosticini, che sono comunque uno dei cibi più amati della Sagra del Seitan. Perché passare una giornata così affumicati? Dimmi. Perché ho deciso di passare questa giornata qua, dici? Per passare una giornata conviviale con delle persone nuove, per conoscerli e passare comunque un bel momento insieme ad altri vegani come me, mangiare anche un po' degli arrosticini che faccio, logicamente, e far mangiare chi mangia gli arrosticini, e ce n'è tanti, insomma. Lo vedo, c'è sempre la fila qua davanti. Avete fatto una stima più o meno di quanti arrosticini? Adesso sono le 3:30 di pomeriggio, e quanti arrosticini avete fatto? Non te lo so dire esattamente, ma penso che il migliaio li abbiamo superati di sicuro. Mauro Romanelli insieme a Tommaso Grassi, volontari perenni alla cassa della Sagra del Seitan. Quest'anno è stato particolarmente faticoso? Ma veramente quest'anno era meno caldo, quindi è andato via meglio il tempo, anzi pensavo fosse stato un insuccesso, perché dicevo: mamma, è sembrato di fare molta meno fatica degli anni scorsi. Poi invece, vedendo i dati, è andata ancora a crescere come tutti gli anni. Fra gli stand vedo un sacco di persone, sento la gente che parla al cellulare e dice: guarda, qui c'è gli hot dog vegetali, c'è, insomma, ragazzi che chiamano ragazzi a vedere e descrivono un po' meravigliati ancora questo mondo che ancora non tutti conoscono fino in fondo, ma che è sempre più un qualcosa non di nicchia ma di dominio pubblico. funziona. Questo mondo mi sa che lo conosce bene anche il nostro amico e consigliere Tommaso Grazzi, che ha appena finito di mangiarsi un'eccellente crepe al cioccolato. Davvero buona! Ora ci vado anch'io. Quasi quasi si fa il bis, però insomma. Ma rimanete anche per la cena? Certo. Chiaro, sennò chi gestisce la cassa? Avete perfettamente ragione, ormai no, voi... non si mangia! Siamo qui con uno special guest, Emanuele Di Biase, vincitore per 5 volte del campionato italiano di pasticceria. Addirittura la sua ultima vittoria è stata dedicata al mondo vegan, perché questa scultura di zucchero si intitolava Universo Vegan. Com'è quest'anno la sagra? È molto carina, il cibo è fantastico, ci sono dei grandi cuochi dietro. E come mai la scelta di intitolare Universo Vegan la tua bellissima scultura di zucchero? Perché la scelta vegan secondo me è una grande scelta, è una soluzione positiva a quello che è l'alimentazione nuova. Per cortesia, almeno una ricetta, lasciacela. Seitan, funghi e patate, tanta roba. Allora, praticamente bisogna prendere il seitan, già comprato si fa prima, saltare il seitan con leggermente un goccio d'olio, sale e pepe. Nel frattempo aver scottato i funghi, lessato le patate. Che funghi? Possibilmente porcini, se vanno bene champignon, misti o quello che sia. Unire i tre componenti insieme, aggiustare di spezie, rosmarino e il seitan è fatto. Da 1 a 10? 12. Tutti sappiamo che i segreti dei grandi chef spesso sono racchiusi in spezie o ingredienti segreti. Almeno uno ce lo potresti anche svelare. Una spezia, vengo via da Sagra Vendibile e io smetto di lavorare. Certo. Cardamomo, dai. Pensavo tu dicessi cumino. È un po' facile. No! Disperata per assenza di cumino in questa ricetta. Ma non esiste, no, secondo me no. Rosmarino. Stavo scherzando, solo il rosmarino. Sale, pepe e rosmarino. Tre cose unite insieme sono perfette. Sulla questione del massacro dei randagi in Ucraina abbiamo intervistato l'eurodeputato italiano Andrea Zanoni per capire cosa può fare l'Europa per la condizione di questi animali. Presidente del Veneto della LAC, Lega Abolizione della Caccia, e presidente dell'associazione locale di Treviso Paese Ambiente, Andrea Zanoni è stato eletto per l'Italia dei Valori, subentrando a De Magistris quando è stato eletto sindaco di Napoli. Dunque le chiedo qual è la lettura che lei dà a questo europeo di calcio, quindi soprattutto in relazione a quello che è successo ai cani. Beh, appunto, vista da un punto di vista dei cani randagi, degli animalisti e di tutte quelle persone che sono sensibili appunto agli animali, al loro destino, in particolare il destino di questi randagi, è sicuramente un evento che ha comportato una strage di questi animali. Non dobbiamo pensare ai nostri randagi, la situazione lì sul merito dei randagi è tutta diversa, sono animali che vivono bene, stanno bene di norma, prima che arrivasse appunto l'Europeo 2012, perché sono alimentati dai cittadini, esiste, pensate, il gruppo di randagi del mercato, il gruppo di randagi del cimitero, il gruppo di randagi della stazione dei treni, di determinati parchi pubblici, la gente li nutre, quindi non sono quei randagi che vediamo noi magari qui in Italia, soprattutto al sud, magri, bistrattati eccetera, ma addirittura hanno anche, li chiamano anche per nome. E una presenza quindi tollerata dagli ucraini, con un comportamento, tra l'altro io ho avuto modo di sentire diverse persone di Kiev in particolare, e con un comportamento anche diciamo educato, perché attraversano le strade assieme alle persone lungo le strisce pedonali, quindi un fenomeno diverso dal nostro, dove appunto questi cani stavano bene. E cosa è successo? Con l'avvento di questo appuntamento tra virgolette sportivo, sono arrivati dei fondi, quindi per abbellire le città, per risistemare le strade, gli stadi, per abbellire un po' tutti i centri urbani, e qualcuno ha considerato la presenza dei randagi come qualcosa che non andava bene. E da lì è iniziato questo massacro, che è stato effettuato in tutti i modi, sono stati sparati, soprattutto avvelenati. Ci sono delle immagini anche che abbiamo di forni crematoi ambulanti, e quindi cosa che ha suscitato veramente molta apprensione e sdegno da parte di moltissimi cittadini e animalisti italiani. Io sono entrato in contatto con Andrea Cisternino, che è un italiano, un fotoreporter che vive a Kiev. Ho organizzato, dopo aver sentito le sue testimonianze, aver visto le sue foto, perché lui è appunto un fotoreporter che vive a Kiev da alcuni anni, gli ho chiesto se poteva venire in Italia, e ho organizzato 5 serate in alcune città italiane per far conoscere alla gente quello che effettivamente succede grazie all'organizzazione di questi europei. Ecco, volevo chiederle a questo punto quali sono state le pressioni dei paesi europei, se ci sono state delle pressioni particolari oltre a una lettera come può aver scritto lei, quali paesi hanno dato la risposta più forte, e anche come sono stati i rapporti con le associazioni animaliste ucraine locali, quindi, e con le associazioni sportive italiane. C'è stato un tentativo di coinvolgerle, un tentativo, ecco, di risposta da parte loro? Io mi sono occupato prevalentemente di contattare le associazioni locali, grazie anche alle quali siamo riusciti a mandare una lettera mirata, puntuale, precisa, perché oltre ad avere questo referente abbiamo avuto anche altri referenti appunto di associazioni ucraine che ci chiedevano aiuto. Per quanto riguarda le associazioni sportive, io so che ci sono stati alcuni casi sporadici di appoggio a questa protesta, però sono state veramente rare queste, in particolare ho avuto i contatti Cisternino con queste associazioni sportive, mi pare, vado a memoria di ricordare, che c'è stato qualche calciatore della Sampdoria, ma poi anche altri successivamente, però pochi. Ricordo una foto memorabile di una curva dell'Inter dove c'era uno striscione gigantesco con scritto "Stop the massacre of dogs in Ucraina", però diciamo, insomma, è stato abbastanza sporadico. Sono i tifosi, questi non sono i club, questi sono i tifosi, infatti in altri stadi sono state avanzate delle richieste appunto con degli striscioni. Ci sono state diverse manifestazioni anche in Italia di protesta. Una nazionale anche, mi pare, alla quale lei stesso ha convocato gli attivisti a partecipare. Sì, esattamente. Però degli stati membri dell'Unione Europea o altri stati che abbiano ufficializzato e protestato fermamente in modo ufficiale, non mi risulta ce ne siano stati. Quindi, in definitiva, che strumenti ha l'Europa per affrontare problemi che coinvolgono gli animali? L'Europa, a parte che in questo caso avevamo a che fare con uno Stato che non era uno Stato membro. È vero. Io ho fatto anche un'interrogazione per capire se l'Europa aveva dato dei fondi all'Ucraina per la gestione di questi europei. Mi è stato detto che è stato dato solo un aiuto per quanto riguarda la sicurezza nelle città. E devo dire purtroppo che attualmente l'Unione Europea, parliamo appunto di 27 Stati membri, non ha attualmente una legge che tutela gli animali d'affezione, e quindi non ha una legge che tuteli i gatti, i cani e tutti gli altri animali che vivono nelle nostre case. In questo caso comunque si tratterebbe di animali vaganti, giusto? Non propriamente di animali di affezione inteso come animale che vive in casa, nel caso dei cani dell'Ucraina. Piccola categoria degli animali d'affezione. Certo che se manca una legge, io sono intervenuto più volte, perché oltre che in Ucraina ci sono grossi problemi, ad esempio in Spagna, dove nelle perere spagnole uccidono veramente migliaia e migliaia di cani, oppure in Romania, dove vengono uccisi anche lì, ma dove vengono utilizzati in modo sistematico anche i bocconi avvelenati. Quando si interviene con delle interrogazioni per capire che cosa ha in mente di fare la Commissione Europea per evitare queste stragi, la risposta è sempre, ormai è sempre quella, è una materia di competenza esclusiva dello Stato membro. Perché? Perché non c'è né un regolamento europeo né una direttiva europea che si occupi di questo tipo di animali. Augurandoci di avere presto questa direttiva, le chiedo cosa possiamo fare adesso noi qui a favore, diciamo, dei cani dell'Ucraina, ma ormai anche come dimostrazione della nostra scontentezza rispetto a tutto quello che è accaduto, visto che ormai non possiamo più tornare indietro. Forse possiamo boicottare, diciamo, questi europei spegnendo semplicemente la televisione o cosa? È un'arma che ognuno di noi ha, che possiamo benissimo utilizzare. Noi sappiamo che questi europei vivono anche di pubblicità, vivono di sponsorizzazioni, sicuramente gli sponsor non farebbe piacere che tutta la gente decidesse di non guardare queste partite. Questa sicuramente è una cosa che ogni cittadino può fare. C'è un'altra cosa che i cittadini europei e italiani possono fare. Dal 2009 esiste una nuova commissione parlamentare in Parlamento, che è la Commissione Petizioni, che finalmente ha aperto una porta anche nei confronti direttamente dei cittadini, commissione alla quale ogni cittadino può scrivere in merito a qualsiasi tema che gli sta a cuore. Dunque, onorevole Andrea Zanoni, restiamo animali? Restiamo animali. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. The beast in me. Cittadina americana, nata da madre giapponese e padre statunitense, la biografia di Ruth Ozeki non si discosta da quella di Jane, la protagonista del suo romanzo di esordio, My Year of Meat, tradotto in italiano col titolo Carne. Lio narrante è appunto Jane Takagi Little, una documentarista che accetta di lavorare a una trasmissione per il pubblico giapponese sponsorizzata dalla Beef Export. Durante un anno di riprese di mogli americane intente a cucinare i loro piatti di carne, preferibilmente bovina, a poco scopre un mondo fatto di integratori, medicine, ormoni, compreso il DES, oggi ufficialmente illegale in quanto cancerogeno, ma comunque usato dall'industria della carne per stimolare la crescita dei bovini. Dall'altra parte del mondo c'è Akiko, moglie del rappresentante nipponico della Beef Ex, costretta dal marito macista e violento a guardare una moglie americana in televisione e a cucinare le ricette presentate. Come Jane, anche Akiko farà un percorso di crescita individuale, riuscendo a ribellarsi al marito che vuole ad ogni costo un figlio da lei e riappropriandosi alla fine del proprio corpo e della propria vita. Un romanzo che si fa leggere tutto d'un fiato, nonostante sia un vero e proprio documento di denuncia, con dati concreti e inconfutabili. Seguendo le vicende umane delle due protagoniste e delle varie mogli americane incontrate da Jane per il suo lavoro, anche il lettore viene coinvolto nel percorso di conoscenza sulla realtà dell'industria alimentare statunitense. Ma è anche un romanzo molto umano, contro il razzismo e la violenza maschile coniugata in tutte le sue forme. To vanish in the air. And that is when I must beware of the beast in me. Per incuriosirvi, vi leggiamo un brano del romanzo Carne di Ruth Ozeki. Allora, Gail, che genere di mangime usa? Gail sogghignò. Beh, speravo proprio che me lo chiedesse. Voi ambientalisti dell'Est parlate tanto di riciclaggio ed è proprio questo che si fa qui con il nostro particolare programma di alimentazione, di cui siamo molto orgogliosi. Usiamo cartone e giornali riciclati. Usiamo gli scarti di produzione delle patatine fritte, della birra e dei liquori. Usiamo la segatura e i trucioli delle segherie. Riceviamo persino gli scarti del mattatoio. Ricicliamo il bestiame direttamente nel bestiame. Proteine istantanee, niente male, eh? Lo chiamerei cannibalismo? Mi guardò con supremo disprezzo. Non sono mica umani, disse. Alle sue spalle un gigantesco cumulo torreggiava al centro del recinto, innalzandosi sulla marea di bestiame. Il cumulo pullulava di mosche. Gale fece un gesto con il pollice. «Vedete quello? Cos'è?» «Merda», sorrise. «Impossibile!» «Non sto scherzando. Esce da una parte e rientra dall'altra. Questo si chiama accelerare i tempi di rotazione. È disgustoso!» «No, signore, è riciclaggio, semplice riciclaggio dei sottoprodotti dell'allevamento. Dovete capire come funziona una moderna stalla per l'ingrasso. Usiamo un costosissimo mangime bilanciato, due terzi del quale finiscono in merda prima ancora di essere digeriti. Perché non dovremmo riciclare questo letame, ricavandone nuovo mangime perfettamente utilizzabile? Un allevatore di suini nel Kansas teneva le sue scrofe gravide sotto le grate dei recinti di finissaggio. Sapete quanto ha risparmiato? Circa $10,000 l'anno. Per 90 giorni non ha dovuto nutrire quelle scrofe. Una nota di reverente ammirazione gli incrinò la voce e per qualche istante rimase assorto in una fantasticheria privata. God help the beast in... Sostiene Vallauri. Oggi vorrei dare una buona notizia. È finalmente in libreria il volumone La questione animale, che è il settimo tomo del gigantesco trattato di biodiritto promosso dai due famosi civilisti Stefano Rodotà e Paolo Zatti. È il più grosso volume dedicato al rapporto animali e diritto nella storia dell'uomo, sopra le 900 pagine, e diciamo è l'arrivo della questione animale agli uomini in giacca e cravatta, professori, giudici, in camice bianco, medici, primari, è il più grosso contributo a quello che mi piacerebbe chiamare un animalismo della cattedra. C'è una parte pregiuridica e una giuridica. Quella pregiuridica insiste sui motivi del rispetto per gli animali e occupa una parte grossa di questa prima parte, la questione dell'alimentazione, di cui si fa vedere quali sono i pregi etici, economici, anche economici, certamente ecologici, certamente di riduzione della fame umana nel mondo, e certamente anche di miglioramento della salute umana e di non grande, non estrema negatività dal punto di vista del piacere gastronomico. Quindi c'è un esagono di buone ragioni a favore del vegetarianismo. Nella parte giuridica, naturalmente, oltre a una sezione principi generali, di cui abbiamo già parlato e che fa vedere quali sono le profonde, quasi assurde contraddizioni del sistema giuridico vigente, poi c'è il diritto di ognuna delle categorie, quindi i selvatici, caccia e pesca, gli allevamenti intensivi, le leggi di protezione, i trasporti, la macellazione, e la vivisezione, c'è il diritto degli animali da compagnia, degli animali da spettacolo, insomma di tutte le categorie. Mi sembra qualcosa che tutti dovrebbero avere in mano quelli che hanno a che fare con gli animali, dal comune cittadino al veterinario, dal professore di filosofia morale all'economista. Io credo che sia davvero un segno dei tempi che un volume di questo genere, super rilegato, sugli animali vada a inserirsi negli scaffali delle biblioteche di giurisprudenza. Fotografie, ricette, interviste, contenuti, playlist e il podcast di questa e di tutte le precedenti trasmissioni su restiamoanimali.wordpress.com. Commenti, suggerimenti, critiche, anche aspre, a restiamoanimali@controradio.it. E invitiamo tutti gli ascoltatori a scrivere alla Commissione Petizioni dell'Europarlamento, come ci ha indicato di fare l'eurodeputato Andrea Zanoni. Il link per scrivere alla Commissione Petizioni dell'Europarlamento verrà pubblicato nel nostro blog. E agli oltre 20.000 cani sacrificati per questi europei di calcio, dedichiamo queste piccole filastrocche. Se boicotto gli europei non sono certo fatti miei, rosico perché la strage non è sul risico, boicotto, boicotto, il ricordo del delitto, boicotto, boicotto, solo seitan nel mio piatto. Non guardiamo le partite, ma salviamo delle vite. Mangio seitan tutta la vita e non guardo più la partita. Per i cani martirizzati in Ucraina, sono disposta a mangiare seitan da sera a mattina. È più sana la cucina senza il calcio in Ucraina. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali.